Allora, funziona, si sente microfonato. Sì. Allora, buon pomeriggio. Allora, vi introduco subito l'ospite che ringrazio moltissimo per aver accettato, insomma, il nostro invito e siamo molto felici. Ve lo presento. Allora, Marco Giovenale è un autore con una produzione molto ricca e su più fasi intrecciate di lavoro, ma anche proprio su piani paralleli di ricerca, diciamo. E ha esordito in poesia nel 96 con la raccolta Res. E la prima fase di scrittura è, dico lirica, ma in un senso ovviamente tardo novecentesco. Quindi si potrebbe dire anche post-lirica, con un soggetto consapevolmente non pronunciabile. Quindi sono, diciamo, delle poesie in verso libero e normalmente brevi, curate sul piano fonico-ritmico, e possono comparire stacchi bianchi o interni al verso e un uso funzionale di segni tipografici, ma sempre appunto puntuali. Non si sente. Alzo un po' il volume perché sono vicino. Si sente meglio? Sì, adesso sì. Ecco, quindi invece sul piano dei significati, questi testi, insomma, contengono qualche oscurità semantica. Che si accompagna a temi legati al dolore o per esempio al rapporto con la casa, l'accumulo, i resti e così via. E questa linea è quella che è stata antologizzata in parola plurale, che è del 2005. Vi cito i titoli di qualche raccolta: Curvature, Altre ombre. Shelter e andando avanti, per esempio, Criterio dei vetri che è del 2007 e ancora in questo insieme poetico rientra La casa esposta, sempre del 2007, che è un iconotesto con una sezione fotografica centrale e questa raccolta, come anche Shelter, contiene delle brevi prose oltre ai testi in versi e proprio la scrittura in prosa si accavalla alla scrittura poetica di Marco Giovenale da subito e dal 2000 prende man mano più spazio, entrando nell'orizzonte di ricerca della post-poesia, che è un termine di Jean-Marie Glaize, di cui forse parleremo. E con cui ci si riferisce a testi o oggetti testuali non identificati, fra virgolette, per i quali non è più importante definirsi e definire se si tratti di poesia, di prosa, di poesia in prosa, eccetera, anche se di fatto la poesia è spesso implicata anche in termini ambiguamente contrastivi. Per esempio, in Oggettistica, che è l'ultimo libro pubblicato da Marco Giovenale, che è del 2024, in nota finale, un po' alla Magritte c'è scritto: questo non è un libro di poesie. Forse non proprio così, ma insomma il succo è questo. E in questa scrittura non solo esce il soggetto, ma tende anche a mettersi da parte l'autore, che apparentemente non vuole dire niente. Allora, si tratta di una scrittura diciamo ritmica, mi permetto di dire, perché è segnata da elenchi, schemi ripetitivi che accompagnano e costruiscono anche un'ironia talvolta giocosa, ma direi sempre in qualche modo militante, cioè non è realmente nonsense. Ma si percepisce un senso trasversale che è affidato anche al lettore, ed è un senso che spesso tocca, diciamo, un po' la carne viva della realtà quotidiana e contemporanea, soprattutto anche sul piano della lingua, del linguaggio. andando a ritroso negli anni, vi cito qualche titolo di raccolte di prosa. Una, La gente non sa cosa si perde, che è del 2021. Poi Il paziente crede di essere, del 2016, ed è importantissima e diciamo inaugurale l'esperienza collettiva di Prosa in Prosa del 2009 con Andrea Inglese, Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Michele Zaffarano e Andrea Raus. E questi nomi sono coinvolti anche nel gruppo GAM, che è nato nel 2006 e Marco è fra i fondatori, che sta alla base, diciamo, di un sito internet che raccoglie e con cui si diffonde materiale vario, anche inedito, di ricerca, nell'insieme che possiamo mettere negli scrittori di ricerca. E è uno spazio di condivisione, anche di discussione attiva. E fra l'altro internet e i media digitali sono uno strumento per questo autore non solo di dialogo, di fusione underground, di materiale, ma possono essere anche uno strumento operativo e formale proprio per la scrittura, non solo per la scrittura semantica, perché arrivo, insomma, per concludere e tornando alla questione del senso e del linguaggio. Vi menziono un altro piano di lavoro di Marco Giovenale, che è quello della scrittura asemica. Per chi c'era la volta scorsa, abbiamo visto qualche esempio di Henri Michaux, e sono opere visive che rievocano la traccia di una scrittura, o forse è meglio dire che, diciamo, la traccia di una scrittura non interpretabile e rievoca un senso. E, fra l'altro, Senso senza significato è un sottotitolo di una raccolta, diciamo, di saggistica sulla scrittura semica che ha scritto appunto Marco, è del 2023, e che è questo. E i lavori di scrittura semica sono pubblicati sia in cartaceo, il titolo è Enciclopedia Semica, mi sembra che sia uscito, ma anche in rete, sul sito Slow Forward, ad esempio, che è la pagina, il blog personale di Marco, posso dire blog o comunque Sì. pagina internet, ecco. Chissà, mi fermo qui con la presentazione, sono stata anche un po' lunga, e appunto per cominciare questa chiacchierata partirei proprio dall'ultima pubblicazione che vi ho mostrato, che è Oggettistica, ed è Edizioni TIC, e chiedendoti man mano di leggere i testi che ti vengono in mente rispetto a quello che diremo, magari possiamo cominciare anche leggendo qualcosa. Ci sono dei punti. Ah, vi segnalo una cosa che ho dimenticato. Nella dispensa web che ho caricato su Moodle ci sono dei refusi per colpa mia. E quindi la ricarico e comunque quella che sto proiettando è corretta. Quindi ritroverete una notifica. Ecco, quindi oggettistica e, diciamo, i punti su cui indirizzo il discorso, che poi può andare anche da altre parti, ovviamente, è diciamo, di partire dal titolo, che può essere inteso anche forse metatestualmente, e chiedendoti che oggetto è, che oggetti sono questi testi, come li scrivi, come sono fatti, con cosa sono fatti, e quindi, insomma, contenuti, forme, magari toccando anche il concetto di installazione e Certo. di non, scrittura non assertiva, che tornano spesso anche nelle riflessioni teoriche del gruppo di scrittori di ricerca, anche di prosa in prosa. Allora, io ringrazio intanto l'Università Elisa e il gruppo che appunto mi ha invitato qui e ringrazio voi dell'ascolto. Dunque sì, oggettistica in realtà nasce come serie di testi nel 2013, cioè inizio in realtà a scriverle 12 anni fa circa. Varie traversie editoriali che adesso non sto a descrivere, poi esce lo scorso anno per questa piccola casa editrice che è TIC, è piccola solo dal punto di vista delle dimensioni perché ha pubblicato autori come Christophe Tarkos, Nathalie Cantin e altri, tra cui adesso recentemente è uscito Prati di Andrea Inglese e altri ancora, in questa collana che è la collana diciamo Major, cioè sarebbero i chapbook ultra, mentre nei chapbook più piccolini che avevano queste dimensioni di cui avevano perché ne usciranno un po' meno d'ora in avanti, sono usciti altrettanti autori di nuovo Tarkos, Gerardo Bortolotti, Paolo Morelli, Antonio Sixti, cito un po' insomma, a caso, insomma, sono molti perché i chapbook ne sono usciti di più degli ultra chapbook. Che vuol dire chapbook? Chapbook vuol dire chap è l'abbreviazione di chapter. Quindi è sostanzialmente nella tradizione della pubblicistica ottocentesca quelle pubblicazioni che uscivano a dispense, usciva un capitolo alla volta, quindi un chapter, un capitolo. E da sempre nell'ambito anglosassone designano un tipo di, diciamo, di pubblicazione agile, tascabile, piccola, un fascicolo, quello che noi chiameremmo plaquette alla francese. E quindi ci sono queste due collane che caratterizzano la parte diciamo creativa della produzione editoriale di TIC e poi c'è invece la collana Alberi dove trovate per esempio con me ho portato soltanto questo che è una selezione di libri di saggi da sortie, quindi uscite che è una raccolta di saggi di Jean-Marie Glaize che è uscita per Question Théorique in Francia nel 2009 e da cui Michele Zaffarano anche qualche indicazione che ho dato io, ha scelto, no, in realtà è tutto merito suo, traduzione e cura, un libro che si intitola Qualche uscita, post poesia e dintorni, ed è uscito nel 2021, da cui volevo poi vorrò magari citare qualche brevissimo passo. Mi prendo metà, anzi forse tre quarti della responsabilità dei refusi, perché in realtà Elisa molto per tempo mi ha mandato il file e io sono stato un discolo e l'ho vista male, scorrendo, e quindi non mi sono accorto di alcuni appunto refusi che c'erano, che invece ho visto soltanto oggi sostanzialmente, imperdonabilmente. Comincio proprio con la nota che appunto giustamente Elisa citava, oggettistica non è un libro di poesie, quindi laddove vedete degli accapo in realtà è perché è la conformazione del libro che è stretto e lungo e quindi per forza di cose si va a capo, ma non si tratta di versi. Infatti la nota continua dicendo anche laddove alcuni insistiti a capo o una voluta assenza di giustificazione dei margini possono forse suggerirlo. E leggo proprio i testi che Elisa ha selezionato molto volentieri. Li proiettiamo Sì, anche. vabbè. Come va col microfono? Perché sento che scatta. Intanto. Meglio senza completamente? Grazie. Poi, ecco, o troppo forte o troppo. Provo ad avvicinarmi. Però un po' forse gracchia. Allora, sostanzialmente si può parlare di questi testi come di prosa in prosa, che è un'espressione che appunto ha coniato Jean-Marie Glaize e che ampiamente trovate citata in questo libro, che ripeto però è solo una selezione perché Sortie è un libro molto corposo che raccoglie una quantità di saggi di Jean-Marie Glaize comparsi nel corso degli anni, grosso modo se non sbaglio, dagli anni 90 fino a quando Sortie è uscito nel 2009. È un'espressione che indica appunto qualche cosa che non è poesia, che non è poesia in prosa e che non è prosa nel senso narrativo, quindi non tende a raccontare e non tende neanche a poetizzare una non narrazione. È qualcosa di ancora diverso. E lo si vede un po' anche dai vari testi che comparve a suo tempo nel 2009, in questa, che non è un'antologia, è un libro collettivo che si intitola Prosa in prosa, che prima appunto Elisa giustamente citava. E che comprendeva appunto materiali completamente diversi tra loro di Andrea Inglese, Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, che purtroppo non è più con noi, Michele Zaffarano, Andrea Raos e miei. E in più aveva all'interno, e anche questo forse potrebbe essere considerato un icono testo, un inserto di fotografie che sostanzialmente sono un po' come delle immagini da cellulare. Diciamo in una recente presentazione, facciamo meglio quello, proviamo a cambiare il microfono, se no è anche un tormento per voi, temo, ascoltare, a parte quello che dico che è già tormentoso forse. In una recente presentazione di Prosa in Prosa, che è stata fatta online per la finestra di Antonio Sixti, credo Antonio Francesco Perozzi o Gianluca Piccone, adesso non ricordo, paragonavano un po' questa parte centrale a una sorta di sequenza di Instagram, perché sono una serie di tasselli, ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7x4, 28 ogni pagina, le pagine sono parecchie, fino a formare una complessiva quantità di 504 illustrazioni in bianco e nero nel testo. Questo, quando è nato l'idea di fare questa illustrazione, il discorso era ironico, era ovviamente un po' una presa in giro dell'iconotesto in quanto tale, prima ancora che forse, come oggi un po' succede, l'iconotesto venisse battezzato in quanto tale, questa sorta di nuova invenzione della contemporaneità, che non è assolutamente un'invenzione, in cui appunto l'immagine e il testo si mescono o dialogano in qualche modo. E noi avevamo inventato queste 504 illustrazioni che non illustrano assolutamente niente, perché sono immagini della quotidianità, a volte più scontata, a volte sono immagini della, così, dei media, frammenti di parole, eccetera. E i testi che c'erano dentro erano testi molto diversi tra loro. Quelli di Andrea Inglese sono stati praticamente ristampati, ampliati in questo nuovo ultra chapbook che è uscito da poco e si intitola Prati. Gerardo Bortolotti proponeva dei testi che erano dei frammenti, delle schegge, sostanzialmente un discorso molto legato alla forma frasale, non meno all'ampiezza del periodo e tantomeno alla narrazione. Alessandro Broggi proponeva un'antologia di suoi lavori, grosso modo simili al lavoro di Gerardo Bortolotti, ma più legati alla raccolta di materiali da fonti anche, diciamo così, banali, cioè da rotocalchi, riviste di moda, eccetera. Io proponevo una serie di testi costruiti con il googlism, di cui magari parleremo dopo. Michele Zaffarano rielaborava un testo spezzettandone i pezzi e riarticolandoli, e Andrea Raos, che secondo me un po' illegittimamente viene definito un po' forse il più lirico di noi, proponeva un testo che si intitola Lettere Nere, che poi sarebbe stato pubblicato dalla casa editrice Effige non molto dopo, in cui appunto in realtà l'aspetto prosastico e l'aspetto della poesia dialogano in maniera abbastanza ricca anche di contrasti e di conflitti e di scintille. Senza che noi ce l'aspettassimo, Prosa in Prosa ha avuto una certa fortuna accademica, critica e anche in qualche maniera di pubblico, se vogliamo, visto che comunque la prima edizione che usciva nella collana Fuori Formato, diretta da Andrea Cortellessa per le Lettere, è esaurita in tempi abbastanza, per un tipo di libro così, insomma, tempi abbastanza brevi, tant'è che è stata ripubblicata proprio da TIC nel 2020 con una copertina di Enrico Pantani, che riprende scherzosamente la copertina del Tempo. No, aspetta, così lo vedono, ok. E in cui c'è una specie di robottino che sta avvicinandosi minacciosamente a una capanna. E in realtà questo avrebbe a che fare molto anche con la casa esposta, nel senso che la fotografia viene dal colossale scasamento di casa mia. C'è mio padre che era un hoarder, si direbbe in inglese, cioè è un malato di disposofobia, accumulava compulsivamente, ma non è che accumulava scatole di sigarette anche, ma accumulava appunto oscilloscopi, se avesse potuto avrebbe accumulato anche roulotte una sopra l'altra. E qui molto probabilmente questa che sembra una capanna, credo che sia una sorta di attrezzatura che serviva a riscaldare le piscine, che come chiaramente tutti voi avrete in casa, insomma, una cosa del genere. E il robottino invece probabilmente è un motore, non so di cosa, però non lo chiedete. E quindi questa immagine, che è piaciuta un po' a tutti noi sei di Prosa in Prosa, è finita in copertina e poi è finita qualche anno dopo nella copertina rielaborata da questo straordinario artista che è appunto Enrico Pantani. Da quel momento in poi i materiali di Prosa in Prosa, cioè il libro è uscito, ma non è che ci siamo fermati lì noi. Molti altri, anche autori, hanno cominciato a scrivere così o hanno continuato a scrivere così, o meglio ancora, abbiamo scoperto che molte persone scrivevano così, cioè avevano questa, diciamo così, volontà di non accedere al discorso poesia-poesia, e di non accedere al discorso narrativo in senso stretto, ma trovare una strada che praticamente non fosse neanche un luogo intermedio, ma proprio qualcosa che non teneva in conto il fatto che ci si dovesse iscrivere in una o nell'altra categoria. È un po' come quello che, appunto, un'altra delle cose che dice Jean-Marie Glaise in questo libro, una sorta di slittamento via dal sistema dei generi letterari. Allora, ho chiacchierato un po' troppo e vi leggo, non richiede. Una volta perimetrato l'orto, vediamo dove sta, questo è quello precedente, dopo, eccolo qua. Una volta perimetrato l'orto, puoi tirarci l'insalata, non essendo in grado di piantarla, ne getti le foglie, memo acquistare in precedenza, all'interno del perimetro dell'orto. Tiri le foglie dentro l'orto, da fuori, avrai in tal modo dell'insalata all'interno del tuo orto, è possibile affermarlo. Essendo definito orto, inevitabilmente contiene degli ortaggi, se tu avessi delimitato una cinta muraria cittadina, avresti veduto crescere negli anni invece una città. Sono piccoli accorgimenti. Gli strumenti di misura sbagliano solo un po' e solo qualche minuto, basta un po' di attenzione per fare le correzioni. Non ci si improvvisa, agricoltori o contadini, occorre una lunga saggezza. Tuttavia, si possono lanciare delle piante da un posto all'altro, non richiede preparazione. E andiamo avanti, leggiamo magari soltanto questo e poi un'altra cosa che invece vorrei leggere io. Esorta. È incredibile, dovrebbe essere vietato, dovrebbero impiccarli, sono la vergogna della terra, della razza umana, ci vorrebbe la pena di morte, è scandaloso, andrebbero appesi per i piedi, gli dovrebbero bucare i tendini, andrebbero torturati, spaccati in quattro, gli caverei gli occhi, non dovrebbero esistere da radergli al suolo tutto, casa e tutto, sono un abominio, un'ignominia, mi vergogno di loro in galera, andrebbero buttati da un pezzo in galera, e buttare la chiave da perderci il sonno, penso, che vergogna, da fucilarli, andrebbero fucilati alla schiena due volte, anche da morti, una volta c'era la ghigliottina, ma sarebbe troppo poco, andrebbero squartati, macellati, coi maiali fatti a cubetti, nemmeno nel tritarifiuti, direttamente in fogna e avvelenerebbero la fogna, mi sembra il minimo, vanno al minimo, sottovoce, sono molto pazienti, perché parlano sottovoce, si possono ascoltare verso sera bisbigliare tra di loro come se pregassero, forse pregano, leni, hanno una mitezza disarmante, sostano nei giardini, non fanno male a una mosca, quasi non mangiano, viene da piangere, sto piangendo, piangiamo, essi piangono. Ovviamente questo potrebbe sollevare, magari lo solleva, il tema della esecuzione del testo, perché un testo letto così è diverso da un testo che l'occhio legge e non interpreta. A metà strada sta il primo testo del libro, libro che si apre con in realtà una citazione da Jimi Hendrix che dice «Your people I do not understand», cioè io, voi non vi capisco, la vostra gente non la capisco, ed è forse una delle pochissime cose che dice nella canzone «Third stone from the sun», terza pietra, terzo pianeta a partire dal sole, che saremmo noi la Terra. Perché appunto immagina con i suoi colpi, i suoi riff di chitarra violentissimi o estremamente allungati, di mimare con questi suoni appunto l'arrivo degli alieni sulla Terra, che quanto più si avvicinano al pianeta, tanto meno capiscono quello che siamo e che facciamo. E in fondo questo è tutto, è un po' il clima di questo libro, che tende a spostare nel paradosso di sé un ritratto possibile della specie umana, e comincia con il testo facilitazione. Perché la gente non si ammazzi, lì ci mettono le transenne, ci mettono le barriere, delle barriere. Fanno in modo che non si buttino, che ci pensino, è difficile scavalcarle, scavalcare i muri. Fanno anche dei muretti bassi, per le galline, per i movimenti degli animali piccoli, ma sono deterrenti, come dicono, per chi vuole buttarsi, per la gente, se volesse casomai ammazzarci. Non è detto che non ci riesca comunque, allora mettono delle reti solide, quelle della conigliera, poi per gli animali più grandi, un gibbone, due gibboni, mettono quelle che possono, alte, alzano le reti in modo che siano alte, fanno degli sforzi in modo che ci sia anche una distanza da dove si cade, uno spazio, come un gioco, un lasco, una specie di fossato che scavano o possono non scavarlo, magari c'era già prima e loro ne approfittano, allora vanno molto indietro e allineano delle punte respingenti, altrimenti del filo spinato o elettrificato, oppure sia spinato sia elettrificato, entrambi, in modo che la gente non possa ammazzarsi, che se vuole buttarsi giù si prende la corrente, la scossa, salta in aria, frigge, lì brucia, non si butta e non può buttarsi, viene respinta, si attacca, come la pelle del pollo al tegame, mettono un militare ogni 7-10 metri, con la baionetta, il fucile, La mitraglietta, la beretta, fa la staffetta per fare la guardia perché spari se loro si provano, se provano ad avvicinarsi. I piantoni gli sparano perché non si ammazzi, non si ammazzino questi e quelli. Uno non si butti giù, non ci pensi. Per fare smettere la gente, smettere di pensare queste cose, bisognerebbe entrarle nel cervello per risparmiare tutti i muri, ringhiere, grati, cordoni, fili, soldati. Sarebbe più facile, forse è più facile. Ecco, diciamo che l'osservazione della. Così del pianeta Terra da queste entità aliene un po', ecco, è quello che mi sembrava forse attrarre di più diciamo, essere diciamo, il comune denominatore di queste prose, di questi oggetti. Come vengono scritti? Mi hai domandato. Vengono scritti spesso, semplicemente, banalmente, camminando, magari dettando a Google Drive. Un Google Doc attraverso la trasformazione del vocale in testo, oppure vengono scritte semplicemente a mano e poi trascritte. In una situazione in cui spesso a vigere non è tanto la costruzione di un discorso sintattico che tenga, in cui una frase si aggancia all'altra secondo regimi di causalità o di interrogazione, di ipotesi, eccetera, ma secondo quei salti di senso che sono ben descritti da un saggio che trovate in rete che si intitola La frase nuova, The New Sentence, che è un saggio scritto negli anni 70 da Ron Silliman e che dà il titolo a un intero libro di saggi che grosso modo intorno a questo argomento ruotano. Gherardo Bortolotti a suo tempo, credo sì, fino a una ventina d'anni fa comunque, no, un po' meno, lo ha tradotto e lo trovate in rete anche su GAMM stesso. GAMM è il sito, è gamm.org. C'è un index, un indice molto ampio, voi fate Ctrl F e trovate subito il saggio. E in questo saggio, una delle tante cose che dice Silliman, difficile da riassumere, forse non ne sono in grado, è diciamo, l'osservazione che riguarda diciamo, il meccanismo del falso sillogismo. Cioè un sillogismo in qualche maniera si articola secondo una conseguenzialità che tende a validare la sintesi. I sillogismi, o meglio, le frasi che con carattere ternario o addirittura scavalcando la forma a tre si producevano nel tempo in cui Silliman scriveva, che era anche il tempo del mulino di Bazzano in Italia e di altri esperimenti in terra di Francia, per esempio. Erano frasi che in realtà diciamo, mimavano l'aspetto logico di conseguenzialità logica, che è specifica del sillogismo come di altre forme di dimostrazione nel linguaggio comune, però tutte le volte con uno stacco, con una sorta di caduta del senso a metà strada, come se in realtà da A non potesse veramente venire B e di conseguenza non esserci una sintesi C. Detto così è abbastanza astratto, però forse. È possibile fare qualche esempio. Esempio da me, ma poi ci sono tantissimi esempi che potrebbero essere presi proprio da prosa in prosa. Ma non è una regola, nel senso, non è che uno pensa adesso faccio così e poi a metà strada taglio la strada alla frase che si sta muovendo. In realtà si tratta di percepire dal principio la natura non diciamo, razionalizzabile del parlare anche comune, in cui se noi per esempio attraverso una tecnica che si chiama eavesdropping ci mettiamo al tavolo del bar e ascoltiamo i discorsi che fanno le altre persone che stanno al bar, non troviamo una conseguenzialità sintattica e un discorso filato come per esempio sto cercando di fare io in questo momento, ma troviamo tutta una serie di salti. Troviamo tutta una serie di cut-up, per esempio. Non so se poi faremo a tempo a leggere, ho portato una piccola citazione da Burroughs che di questo parlava alla fine degli anni 50 del secolo scorso. E quindi non si tratta neanche di fare mimesi di questo tipo di modo di parlare, si tratta in qualche maniera di mettere nero su bianco la possibilità di osservare frontalmente il fatto che noi non ragioniamo, o non necessariamente ragioniamo, non sempre ragioniamo in maniera, come dire, lineare. E sillogisticamente determinata. C'è un testo che per chi è il libro si trova a pagina 63 che si intitola Film. No, grazie, e comincia con un se, infatti. se è importante vedere film sentimentali, accadono cose atroci. Sellano un destriero, si prepara una lavanda, si raccolgono dei fiori, violacei e turchesi. Sarà lavanda, tutti dicono. Si interrogano sulla natura del fiore, oggi attraversando il Tevere. E devono aver perso il cavallo ieri da qualche parte. Ecco, è chiaro che questa non è una narrazione che regge, in qualche maniera è come se si dissipasse la storia. In maniera totalmente invece retta da regole anche baroccamente perseguite, Carlo Emilio Gadda scrive Il pasticciaccio brutto di via Merulana, in realtà seguendo per la trama e per l'idea di fondo un principio analogo, e in qualche maniera tutto il Novecento è percorso. Il Novecento è una grande macchina di produzione, di interruzioni, di cut-up, di glitch, di salti della puntina sul disco. Perché la ricerca del commissario Ingravallo si perde nella campagna romana, grosso modo all'altezza di via di Santa Fumia, le tracce si disperdono, noi non sappiamo veramente come finisce il libro, e così tante altre cose novecentesche. Però temo di aver parlato troppo, adesso ripasserò il microfono a Elisa. Grazie, sì. Allora, collegandomi un po' a questo sillogismo che cade, che casca nel nulla, penso che ci sia anche qualcosa di molto realistico nella sua realtà, cioè il fatto che la lingua non si concluda. E a questo proposito volevo insomma chiederti come funziona, diciamo, questo rapporto un po' con il linguaggio, che può essere anche militante, cioè come tu pensi, cioè lavori anche in un senso di per suscitare nel lettore determinate reazioni, e su questo ti chiedo anche diciamo l'effetto, una cosa riguardo l'effetto umoristico che può derivare anche da queste ripetizioni, dagli accumuli, che mi sembra anche sempre bilanciato diciamo da degli sfondi concettuali o da delle pieghe anche molto serie che possono derivare dal riutilizzo di frasi banali e quotidiane, dai discorsi che saturano un po' il nostro udito, la nostra vista. Per esempio la lettura che hai fatto da Esorta, con questa lettura diciamo accelerata di cui magari poi parliamo, nel momento in cui ho letto questo testo non mi sentivo bene, perché sono discorsi che vengono fatti certo, normalmente, e possono essere anche atroci, quindi insomma ti chiedo qualcosa su questo, e anche magari sei felice se le persone ridono, questo è un po' banale però. No, diciamo che sono fatti per far in qualche maniera, meglio, non sono fatti per far riflettere, è che non possono non essere fatti così, e quindi io spero che poi questa intenzione si trasmetta, e chiaramente mi fa piacere quando succede. E in realtà c'è anche in questo testo qui, anche in Esorta appunto, una sorta di duplicità, perché nel momento in cui il testo trascolora dalla violenza estrema aggressiva a questa terza persona plurale, questo mi sembra il minimo, è il punto di è alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, all'ottava riga dal basso, mi sembra il minimo, vanno al minimo sottovoce, non si sa più di chi stiamo parlando, perché prima dovrebbero impiccarli e poi vanno al minimo, si sentono bisbigliare come se pregassero, eccetera. Quindi l'interpretazione può essere doppia, e su questo anche si gioca, in realtà il freno è posto al riso del lettore, dell'ascoltatore, perché se da una parte è un testo che chiaramente fa riflettere sulla violenza che sta in tutti i discorsi che sentiamo intorno a noi, che sentiamo fare per esempio di razzismo, nei confronti dei più umili, dei più deboli, dall'altro c'è anche una sorta di, come dire, di backlash, di colpo di rinculo che mette in realtà questi oggetti all'interno invece del soggetto, cioè questi che parlano sottovoce potrebbero essere le stesse persone che poco prima volevano, avrebbero voluto bruciare, uccidere, eccetera. Quindi questa terza persona plurale all'inizio può essere quella della persona, cioè questi oggetti, questi che dovrebbero essere bruciati, che dovrebbero essere appesi, che dovrebbero essere fucilati alla schiena addirittura 2 volte, eccetera, come traditori, eccetera, eccetera. Sono chiaramente delle vittime, ma chi è che sta parlando esattamente? E potrebbero essere quelli che stanno parlando, anche quelli che vanno al minimo, che parlano sottovoce, che sono questi, insomma, possiamo raffigurarci delle persone anziane assolutamente fuori di testa, che si siedono sulla panchina e mitemente danno da mangiare ai piccioni, intanto pensano a come uccidere masse di persone. Oppure, è il contrario, e queste vittime sono in realtà coloro che in realtà non hanno fatto assolutamente niente, vanno al minimo sottovoce, sono molto pazienti, bisbigliano tra di loro, eccetera, e sono le vere vittime sacrificali della prima parte del discorso. In realtà questa ambiguità, in qualche maniera, se viene percepita e se la parola riesce a trasmetterla anche nell'esecuzione del testo, permette di frenare l'impulso a sorridere, così come nel testo che vi ho letto prima. C'è in realtà anche il pensiero che questa facilitazione, questa possibilità di, come dire, di rendere più facile e assolutamente tranquillo non uccidersi, in verità sia, come dire, una sorta di tranello, di ulteriore ghigliottina, di tagliola, come in effetti è. E questo credo che stia un po' in tutte le prose del libro. Quindi, da una parte c'è il desiderio di mettere in campo una critica sociale, principalmente, perché riguarda un po' la vita di un po' di tutti, questo libro, e della banalità del quotidiano, appunto, come giustamente diceva Elisa, e dall'altra il desiderio di, in qualche maniera, nel momento in cui si attiva il sorriso, cercare di tendere anche un po' i margini della bocca verso il basso, ed è quello che giustamente tu dicevi a proposito anche della presenza del tragico in alcuni testi, non soltanto di oggettistica, ma anche altri scritti precedenti e poi immagino successivi. Sì, poi ci sono anche dei testi, diciamo, più satirici, dove, cioè, sono molto divertenti e ci possiamo permettere anche di ridere, ad esempio quei Assolutamente. testi sugli intellettuali, Io pensavo infatti di leggerne uno. potremmo leggerlo, ci sono due serie, mi pare. Sì, esatto, uno con i tag e uno. Quello su con E Pasolini. quello con. Sì, forse leggiamo questo un po' più lineare. Allora, questo si intitola Andata e ritorno, sequenza degli intellettuali. Vimeo è molto pulito, Vimeo è molto più pulito, anche se i crampi e l'intermittenza, ma queste sono cose del corpo che c'entra. Bisogna scommettere il giusto e sulla tecnica giusta. Un trucco è guardare i contorni. Se non sfarfallano è meglio. Heidegger andava in Grecia, si sedeva composto, mangiava un panino, gli dava sicurezza. Si annuvola, mettono le plastiche sulle telecamere, rischierebbero altrimenti di bagnarsi. Non è una buona idea, manderanno comunque in onda il servizio. È un servizio in diretta, è stato lungamente annunciato. Piove. Il servizio è già in odore di Pulitzer. Il titolo del servizio, Piove. Ah, quando c'era Pasolini, che rimpianto! Pasolini gli intellettuali Pasolini, permangono degli intellettuali, essi vedono o fanno dei film su Pasolini, una soluzione come un'altra, una soluzione tira l'altra all'affannoso problema che ogni stagione si ripresenta puntuale. Prendiamo un caffè, dicono. Prendiamo un caffè con più slancio, andiamo al caffè, prendono un'aranciata, 2 tranci di torta, lemon soda, andiamo subito, così andiamo e grandi sorprese. Prendiamo un caffè negli anni 60, c'è Moravia, c'è Pasolini. Entriamo nel vivo del dibattito, usiamo degli aggettivi, a volte terminano con istico. Entriamo nella, che dura di più, televisione, per criticarla da dentro. È per certo un intellettuale, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, gli vanno e vengono come si vede, mettiamo che un pomeriggio, come riservando, come a fiocco, uno abitava al 20 o di rimpetto al 19, Moravia ha una piccola rendita. Nelle biografie Pasolini fa il film. Per fortuna agli anni 70, tuttora una sta, e insomma uno sta attento a capire bene che una strada poi tutti, e ci passano un po' tutti e si stenta a capire. La situazione si è complicata dopo la tragica scomparsa degli intellettuali. Pasolini

delle indicazioni sulla carta e al tipo di libertà che si prende il, chi le esegue. Io personalmente, diciamo che ho sviluppato un modo di lettura che soprattutto su alcuni testi deve molto contare sulla velocità. Per esempio c'è un testo che ho letto nel 2013 per la prima volta, che si intitola Phobos, adesso non ricordo il numero esatto, dovrebbe essere 2 minuti e 27 secondi, cioè un testo che va letto in 2 minuti e 27 secondi. Se uno, uno può scrivere anche un testo che si intitola Phobos 4 minuti e 30 e allora lo legge in 4 minuti e 30 oppure lo allunga fino a farlo di 4 minuti e 30. Questo anche per sottolineare una cosa, che alcuni testi, soprattutto una buona parte di un buon versante di testi di scrittori di ricerca, sono dei testi che prescindono completamente dal modus operandi del poeta, per il quale se tu togli una sillaba commetti un crimine. Cioè, in realtà sono dei testi che lavorano su un altro piano, su un piano che non ha più a che fare in maniera classica, diciamo, con la produzione di senso partendo dalla natura fonosintatticamente organizzata del testo. Cioè, uno degli esempi classici che faccio sempre quando si parla di questa cosa è proprio, mi dicevi che l'hai indicato nella dispensa o comunque che ne avevi parlato, Retro di Corrado Costa. Ah, sì, sì. Che è un testo in cui per 8 minuti e spiccioli Corrado Costa dice in continuazione retro, retro, retro, il testo è sul retro, voi siete sul lato sbagliato, dovete girare la cassetta, retro, retro, retro, va avanti così per 8 minuti. Ora, ragionandoci, non è che se noi ascoltiamo per 8 minuti il testo facciamo un favore al testo e se lo ascoltiamo per 6, no. Siamo entrati nel testo, abbiamo fruito della produzione di senso che il testo espone, anche se ne... ecco, io ne ho parlato per 3 secondi e tutti quanti più o meno ci siamo intesi su che cosa intende fare questo testo. Ecco, più o meno, diciamo che la forbice del concetto stesso di esecuzione va da un massimo di aderenza al testo nella sua natura tipografica gutenberghiana, per cui se c'è una tabulazione di 4 caratteri di 10 colonne prima dell'inizio di un verso, uno sta per 10 battute del metronomo in silenzio e poi legge il testo, oppure no, oppure c'è una l'altra punta della forbice punta a una grande libertà che a volte può dipendere anche dalla situazione stessa, cioè può dipendere da se uno legge un testo in un centro sociale oppure se lo legge in un'aula di università o se lo legge in una cantina o se lo legge ad amici, eccetera eccetera. Che si crea anche in realtà un insieme di sottili linee, di relazioni tra le persone che ascoltano e chi parla, e che comunque questo che parla ha in ogni caso il microfono in mano, e questo è il motivo, è il testo finale del libro, si parla proprio del microfono implicito, cioè di questa presa di potere di chi gioco forza comunque detiene il microfono, crea un diverso tipo di rapporto. E questa forse è la cosa che mi interessa di più, cioè il tipo di rapporto che si crea con l'ascoltatore, perché la natura del testo, le modalità del testo e anche il contenuto del testo passino in maniera quanto più possibile fluida, secondo appunto come è nato il testo, e cerchino di attenuare il senso di prevaricazione che comunque chi detiene il microfono ha. E io in questo momento mi rendo conto che parlando a una classe, cioè, non riesco a decostruire completamente il contesto, e forse non è neanche giusto, perché se no chi ascolta non prende appunti su che se non ascolta chi sta parlando e chi gli parla di alcune esperienze, di alcune cose. Questo per dire appunto che quando spesso e volentieri voi vedete in rete spessissimo attivarsi, un po' ne sono forse responsabile anch'io, questa polemica tra la performatività, la performance, e invece tra l'aspetto più gutenberghiano e fisso del testo sulla pagina, che comunque va letto principalmente con gli occhi, questo forse è un falso problema, perché tutte le volte c'è qualche cosa nel testo appunto gutenberghianamente fissato che induce il lettore in realtà a spacchettare tutta una quantità di altri nuclei di energie che sono all'interno del testo, e viceversa un testo che magari è pensato quasi veramente come un pentagramma da performare principalmente, ha delle qualità puramente gutenberghiane e testuali che vanno in qualche maniera sottolineate. E questo complica molto la vita a chi deve analizzare i testi, perché sì, perché chiaramente cioè, apre una quantità di scenari che in una cultura come quella italiana, molto legata all'analisi testuale, anche all'eredità crociana, se vogliamo, insomma, cioè, può mettere in imbarazzo l'analisi stessa del testo e quindi la trasmissione della conoscenza su come si analizza un testo, come si affronta un testo. Ma sono sicuro che esperienze di laboratorio come queste invece riescono a dare un ventaglio più ampio di possibilità di lettura. Sì, tra l'altro è interessante anche quella la menzione della poesia Phobos, che ha detto che è un caso forse anche particolare, perché normalmente ecco, sì, le tue letture non sono mi viene da dire aggressive, nel senso che impongono una specie di recitazione teatrale tutt'altro, ma al contempo si sente che c'è comunque una ricerca anche del suono, del ritmo, della pronuncia, eccetera. E a questo mi ricollego per fare un passo, diciamo, tematico ulteriore. Tra l'altro, per parlare di, diciamo, sconfinamenti tra le materie artistiche, mi viene da dire così, pensando a questa parte di esecuzione, hai menzionato anche l'idea della durata. Io ho pensato subito a delle esperienze che ormai sono, diciamo, classiche del secondo Novecento, anche musicale, per esempio i lavori che fa Cage con i suoi testi. Ho in mente una sua conferenza in cui divide il testo in barre diciamo della stessa spaziali identiche, che corrispondono a una stessa durata delle porzioni in cui deve leggere il testo, e poi ovviamente anche Amelia Rosselli, che si appuntava a matita la durata dei singoli versi, ma era tutto un sistema metrico musicale molto, diciamo, articolato, pensato. E ecco, questo sul piano dell'acustico, aurale. E sul piano invece visivo, abbiamo già un po' parlato dell'uso della fotografia, dell'uso anche un po' ironico sull'iconotesto, questo mi è sembrato molto interessante. Però, oltre a menzionare queste tue esperienze, abbiamo parlato anche delle foto, del libro La Casa Esposta, che è questo, e che c'è anche nell'esposizione in biblioteca. Proverei a introdurre l'argomento della scrittura asemica. Faccio un po' un accumulo di domande. Okay. Segno. Appunto, per sapere che tipo di lavoro è, come entra in relazione con la tua scrittura invece ancora linguistica e semantica, appunto hai una visione globale di insieme, cioè di tutto il tuo lavoro, che incluso una specie di macro testo generale, in cui sono inclusi anche i lavori asemici, ma in cui possiamo metterci anche il tuo lavoro di saggista, oppure se si tratta di esperienze che preferisci tenere distinte. Ritornando alla questione visiva aurale, volevo chiederti se il suono ha uno spazio nella concezione di queste scritture senza significato, o se per te è qualcosa di puramente visivo e silente, silenzioso. E qui proverei a mostrare anche qualcosa dal sito, per avere un'idea di quello di cui stiamo parlando, insomma. Sì, Allora, la relazione. Allora, intanto la scrittura semica, come giustamente diceva Elisa, anche introdotta all'inizio, è qualcosa di non comprensibile. Cioè, allora, la parola asemic ha origini ottocentesche e individua una patologia, cioè una patologia di carattere neurologico che impedisce alla persona che ne soffre di esprimersi, di esprimere le proprie sensazioni, le proprie emozioni, di reagire in maniera di dare dei segni, ecco, quindi asemia. Ed è uno dei motivi, essendo questa accezione invalsa nell'uso, magari accademico, medico, però comunque invalsa nell'uso della lingua inglese fin dall'Ottocento, per cui questo tipo di scrittura di cui sto per parlare ha incontrato diverse resistenze. Lo stesso Ron Silliman, che citavo prima a proposito della frase nuova, The New Sentence, era un po' scettico e avrebbe preferito l'uso di un altro termine. In realtà i dizionari, anche quelli, credo, proprio il Collins già dal 2017, se non sbaglio, io poi dovrei avere appunti che però in questo momento non ho sotto mano, hanno accolto anche l'accezione, diciamo così, positiva, artistica dell'espressione asemico. Cioè asemico è ciò che assomiglia a una scrittura, ma anche nei suoi segni minimi non ha nessun significato, cioè non rappresenta sembra una scrittura, per esempio, calligrafica, ma in verità non ha assolutamente nulla di leggibile, non appartiene a nessuna scrittura nota. E il senso di fascinazione che ci prende nel guardare, nel vedere questo tipo di scritture è un po' simile a quella che ci prende quando osserviamo la scrittura araba o la scrittura cinese, giapponese, cioè c'è una grande fascinazione nel movimento delle linee che però prescinde dalla nostra comprensione dei testi, a meno che non facciamo ovviamente dei corsi di arabo, di cinese o di giapponese. Quindi diciamo, i dizionari hanno cominciato ad accettare dopo circa un ventennio che si usava in ambito artistico, di alcuni artisti, in ambito specifico, questa espressione, hanno cominciato a effettivamente come dire, accettare l'accezione di carattere artistico, cioè effettivamente questa scrittura è una scrittura con caratteri come dire, di fascino, di fascinazione, ma che non significa assolutamente nulla. Adesso sì, magari facciamo vedere qualcosina e poi rispondo meglio alla relazione invece con la scrittura semantica. E qui basta semplicemente andare qui questo è il mio sito. Se voi andate sui tag, trovate tutta una quantità di robe, tra cui scrittura semica. Basta cercarla così. Ecco qua. E asemic writing, vabbè, a parte visto che comunque di questo si parlava, ne ho parlato. Ecco, questo per esempio è un artista è polacco che si chiama Miron T, che nel 2014 faceva tutta una serie di opere di questo tipo, accompagnando la parte grafica un po' glitchata, come vedete, perché è una fila di alberi che però sembra, no, prolungarsi nella distanza. Assumono un aspetto stranamente tridimensionale, con delle scritte che sembravano descrivere ciò che veniva appunto mostrato e che però appunto se uno va a ingrandire non c'è assolutamente scritto nulla di decifrabile. Questa è una mostra che ci sarà tra poco a Genova, dal 26 aprile si apre, ci sono opere di vari artisti e tutti quanti appunto fanno riferimento a questa pratica. Qui noi stiamo vedendo un'opera appunto di Henri Michaux. Ecco, che nel 1974 è uscito per le edizioni Fata Morgana. Si può dire che forse le edizioni Fata Morgana francesi sono nate proprio per mostrare in gran parte l'opera di Michaud. Non clicco su play, ma insomma vedete voi stessi che si tratta di pagine e pagine e pagine e pagine di grafemi. Michaud ha anche sperimentato con la mescalina e molta parte del suo lavoro grafico degli anni 20 e 30, diciamo, è eseguito sotto l'effetto di stupefacenti. Questa era una domenica in cui avevo dedicato a Michaud un po' di post, come potete I vedere. tuoi testi ci sono? E come? Se ci sono anche tuoi lavori a Ah, i miei lavori asemici. aspetta che se vuoi mostrare di solito questo... aspetta come vado indietro qua perché ho cliccato su esc ma non funziona, tolgo sì ok e, possiamo cercare ecco per esempio no andando giù aspetta faccio vedere su cliccando su questo libro non so dove si va perché è un po' di tempo che non lo provo perché non vorrei che magari è un link rotto. Glitchosemix per esempio, non so se ci sono, c'è una pagina di esempio, no, mi sa di no. Vabbè, già la copertina comunque si vede, questo è un ingrandimento di una scrittura semica, vedete una barra di una di un tratto di grafia, sotto si vede in questa parte qui invece in negativo, quindi in bianco su fondo scuro invece che il contrario, si vede una sorta di grafia a mano, tentata calligrafia che in realtà è sovrapposta, per cui sono due calligrafie sovrapposte che rendono in realtà illeggibile il messaggio che appunto così non c'è, e che mette insieme, questo credo sia il primo libro che mette insieme la pratica della semic writing con la pratica del glitch. Il glitch nasce in ambito musicale, probabilmente lo sapete benissimo, meglio di me, per indicare quel tipo di disturbo, quei picchi, di, come dire, di, quelle interruzioni improvvise, quegli scricchioli che intervengono quando per esempio la puntina sul disco salta oppure quando un suono prodotto elettronicamente incontra un disturbo di qualche genere. Quindi nasce in ambito musicale e poi diventa anche un genere musicale, per cui ci sono gruppi che fanno quel tipo di musica. Però si registra a un certo punto, se non sbaglio, verso l'inizio degli anni 2000, anche lì, non a caso, proprio in concomitanza con la semic writing, un passaggio all'uso del glitch in ambito grafico. Cioè si scopre che sotto la tessitura di codice che sta sotto ogni immagine è una tessitura esadecimale. Alcuni autori hanno cominciato, soprattutto con Apple, a modificare quella tessitura in maniera da ottenere un'immagine che una volta riportata a essere semplicemente immagine, cioè JPEG e non più codice esadecimale, presentava dei disturbi, presentava per esempio dei tagli netti, verticali, orizzontali, dei colori strani, eccetera. Ci sono anche delle applicazioni che fanno glitch, volendo, ormai è una cosa che un po' fanno tutti. E ho unito queste due possibili realtà, cioè la realtà della semic writing e la realtà del glitch, quindi raddoppiando il disturbo e rendendo così ancora più, diciamo così, lontana l'effetto di scrittura dall'effetto di senso. E nonostante questo mi è sembrato di poter verificare, poi chiaramente il libro adesso non l'ho portato, che l'effetto di senso continua. Cioè noi continuiamo a sentire l'eco di qualcosa che ha senso, anche se, e forse proprio perché in realtà abbiamo introdotto un disturbo nel flusso, in questo caso grafico. E, vediamo, non so se c'è... Ah, ecco, qui per esempio... Questa enciclopedia semica raccoglie alcune cose mie, dovrebbe esserci un'anteprima qui su Issu che ci permette più o meno di vedere di che si tratta. Se lo carica, eccolo qua. Allora, vediamo un po'. Qui c'è un'introduzione di Giuseppe Carrera, che anche era stata tradotta in inglese. Ecco, questo è il tipo di scrittura semica che si può fare. Ci sono vari tipi di scrittura semica che per questa enciclopedia. Che presenta questo libro, e questo è un tipo, poi ce ne sono ancora altre. Di solito c'è un tentativo di lavorare anche in prossimità di materiali quasi astratti, e a volte è come se si trattasse di una piccola enciclopedia che spiega qualcosa che però non si sa esattamente cosa sia. E in questo, riprendendo un po' il lavoro che è stato di un grandissimo capolavoro, inarrivabile assolutamente, degli anni del 1980, che è il Codex Serafinianus di Luigi Serafini. Luigi Serafini è un artista di cui adesso, per chi vuole, c'è al Labirinto dell'Amazzone vicino a Parma, se non sbaglio, una mostra colossale che presenta opere precedenti, il Codex e poi il Codex e poi le opere successive. E, che alla fine degli anni 70 ha prodotto una serie di tavole con delle scritture assolutamente eleganti, bellissime a vedersi, ma assolutamente prive di significato, che illustravano, tra virgolette, perché non significano nulla, non possono illustrare, delle tavole fantasiosissime, come una sorta di enciclopedia di un mondo quasi alieno, con delle figure surrealisticamente riprodotte di animali, di bestie, di un sistema numerico che non si sa esattamente che cosa sia. Insomma, un vero e proprio mondo completamente immaginato dalle sue basi biologiche fino ad arrivare alle forme di culture più complesse, che però è totalmente inesistente. Ed è un po' un culmine, secondo me e secondo molti, della scrittura semica, che poi è stato ristampato recentemente da Rizzoli. Quindi il Codex, che è uscito inizialmente in due volumi per Franco Maria Ricci, volumi che sono ricercatissimi dai collezionisti, io ricordo circa quando ancora lavoravo in libreria 10-15 anni fa, forse qualcosa di più, ne vendemmo una copia, cioè viaggiavano delle quotazioni, noi non so se quella copia non era perfetta, viaggiavano delle quotazioni quindi già 15-20 anni fa sui 4.000 euro, quindi un libro molto molto cercato, soprattutto se in condizioni perfette, perché poi Franco Maria Ricci all'epoca faceva proprio dei libri con dei cofanetti incredibili, fatti a mano con una grande raffinatezza, ed è un libro che tutto il mondo asemico cerca disperatamente, perché è veramente una sorta di piccola pietra miliare di quest'arte, chiamiamola così. Che rapporto con la... E il rapporto con la scrittura, per me personalmente, quella lineare quasi non c'è. Però dico quasi, perché in verità, per esempio, ultimamente con una piccola casa editrice che principalmente anglofona, ma che sta in Portogallo, ho pubblicato un librettino, un fascicoletto, neanche forse un chapbook, che si intitola A Few Obsidian Stones and Langrids. Spiego il titolo: poche pietre ossidiane e Langrids, che sarebbero dei language grids, cioè delle griglie di linguaggio, in cui io in forme apparentemente regolari mescolo l'asemico e invece il sensato. Le scritture ossidiane sono in gran parte in italiano, però ne ho fatte alcune in inglese, e quelle lì le ho proposte e le hanno accettate a questa piccola casa editrice. E quindi diciamo che in realtà il dialogo tra il complesso dei testi, che sarebbero le ossidiane, di cui però qui non ho esempi, quindi non posso leggerle, e l'illeggibile estremo, che è quello dato dalle grafie assolutamente incomprensibili, almeno in questo librettino c'è modo di farli dialogare, però normalmente no, non dialogano. C'era una terza domanda che però non ho notato. Se c'è una dimensione sonora, cioè se immagini un brusio o qualcosa del genere, oppure se è semplicemente tipografico. Allora, per me sono principalmente tipografiche, cioè io non pratico l'invenzione vocale sonora su queste cose, però c'è chi lo fa, e per esempio io ricordo, ho partecipato a uno dei tre text festival che si sono svolti a Bury, vicino a Manchester, questo stiamo parlando del 2011, in cui Geoff Youth, che è un autore statunitense di materiali verbovisivi comprensibili e spessissimo di collage, e anche di, in realtà, opere che lui non chiama materie semiche, ma che sostanzialmente quello sono, si alzò in piedi e performò un testo asemico con una sorta di canto, tra l'altro molto affascinante, è molto bravo. E alcuni lo fanno, tra l'altro, c'è anche questa tradizione. Se rimangono qualche istante, ve lo direi da dove nasce Semic. Però non so, non voglio... Sì, avrei solo un'ultima cosa su, appunto, l'utilizzo di internet, che abbiamo comunque attraversato, certo, indirettamente. Ci possiamo rendere conto di quanto possa essere importante, appunto, il web. Per la tua scrittura, la tua riflessione, e quindi ci sarebbe solo questa domanda che ho pensato, e poi lo spazio per le domande. Quindi però 5 minuti, se possiamo sforare un po' e tenerci tipo, che finiamo le 19:10, un quarto, si può fare, secondo me. Io faccio semplicemente allora, giustamente, come tu dicevi, una piccola presentazione del sito Gamma che nasce nel 2006, ma con Gerardo Bortolotti, Michele Zaffarano, Alessandro Broggi, poi successivamente entreranno in redazione anche Andrea Rosa, Andrea Inglese, Mariangela Guatteri, Fabio Teti, diversi hanno attraversato la redazione, o semplicemente la collaborazione, Alessia Folcio e Damiano Beni. Però diciamo i quattro che hanno fondato il sito l'hanno fondato perché conoscendosi da prima e traducendo soprattutto moltissimi materiali dalle lingue, dalle tradizioni anglofone, dalle tradizioni francofone, Michele Zaffarano per la francofona e Gerardo Bortolotti per l'anglofona, ci eravamo resi conto che quindi già più o meno all'altezza del 2004 che c'era una quantità infinita di materiali che non erano stati tradotti, che non arrivavano in Italia, che a differenza degli anni 70, in cui c'erano delle linee strettissime di collegamento tra la Francia e l'Italia, per esempio, pensiamo a tutti i poeti o artisti verbovisivi che dalla Francia venivano in Italia e viceversa, con la fine degli anni 70, con la morte purtroppo di una quantità di persone di diverse generazioni, per esempio Adriano Spada e Corrado Costa, che muoiono pochi anni di distanza l'uno dall'altro, questo ponte si era interrotto. Si era interrotto in concomitanza, tra l'altro, con una sorta di ritorno all'ordine dell'editoria generalista, che quindi avrebbe assolutamente messo da parte tutta una certa serie di materiali che, diciamo, forzava i limiti del linguaggio. E quindi quando ci siamo resi conto che c'era un'enormità, un'infinità di materiali da tradurre, soprattutto dagli anni 90, quindi già era più di un decennio che circolavano tutta una quantità di materiali, abbiamo pensato che non avendo un soldo in tasca, forse la cosa più economica era fare un blog. Il blog nasce inizialmente sulla piattaforma Blogsome, che era una sorta di analogon di Blogspot, che invece chiaramente acquisita da Google, ha avuto molta e ha moltissima fortuna. E che poi adesso questa piattaforma non esiste più, e poi abbiamo acquistato un dominio e da allora, quindi dal 2006, dal primo blog, pubblichiamo materiali sia più o meno remoti. Questo qui è un pezzo di Lawrence Weiner che può essere anche visto in rete sul sito da cui ho preso questa immagine. Pezzi e frammenti messi insieme per presentare qualcosa che possa rassomigliare a un intero, no? E qui abbiamo dietro un muro di mattoncini, quindi una sorta di didascalia di un muro semplicissimo, tra l'altro, però come molte opere di Lawrence Wiener lavorano al confine tra arte concettuale e uso del linguaggio per semplicemente sottolineare quello che già esiste. Questa è una delle linee che seguiamo, ma seguiamo principalmente queste cose qui, cioè testi che siano anche installazioni, cioè testi che non sia necessariamente sempre che non siano sempre necessariamente da leggere linearmente dalla prima all'ultima riga, ma anche che possono essere delle vere e proprie steli di materiali verbali, post poesia, di cui non abbiamo parlato nel dettaglio, ma poi insomma, vabbè, vi ho indicato il libro di Jean-Marie Glaise, magari qualche frammento sta anche qui in rete, Asemic Writing, quindi scrittura asemica, e ricerca letteraria in generale, ricerca. Ora, io clicco soltanto e semplicemente sull'indice per darvi un'idea di che cosa stiamo dicendo. Cioè, noi riusciamo a fare pochissimi post ogni anno, come vedete. In realtà saranno una trentina, una quarantina, 50, che so, una settimana. Ma in realtà il materiale è talmente tanto ed era talmente tanto all'inizio di quando abbiamo iniziato che non sapevamo veramente come fare anche dal punto di vista della gestione del lavoro di traduzione, che è stato fatto in maniera militante e gratuita sia da Gerardo Bortolotti che da Alessandro Broggi, che da Michele Zaffarano, in parte anche da me. Questo è il primo anno, come vedete c'è di tutto, c'è da Helmut Essenbüttel, questo è una raccolta di testi che fu pubblicata dalla collana Einaudi di ricerca letteraria negli anni 60, qui nel 1962, e che da allora non è più ristampato, perché Einaudi vediamo benissimo che cosa ristampa o che cosa stampa. Poi c'erano addirittura delle cose meravigliose nel passato che non c'entrano assolutamente con la ricerca letteraria, come la intendiamo noi, ma che letti diventano dei veri e propri testi installativi o elencativi. Io posso pensare al diario del Pontormo, per esempio, con il suo elenco delle cose che mangia, che è affascinantissimo, non finirebbe mai di leggerlo, anche se semplicemente ti fa un elenco di quello che ha mangiato e di quello che ha fatto, a questo curriculum di studi scientifici di Goethe. C'è un testo di Jean-Marie Glaise, che è uno dei primi che abbiamo tradotto. E ci sono tutti autori che voi non avete mai sentito, che noi sentivamo per la prima volta allora, e che da allora sono rimasti comunque inediti. Se non c'eravamo noi, non ci sarebbe stato quasi nulla. Da Jean-Michel Espitalier a, non so, Jeff Derksen, autore canadese straordinario di testi che sono delle semplici schegge, unità frasali, irrelate, in linea di massima. E questo qui è un testo che ha tradotto Gerardo Bortolotti. Poi alcune cose classiche, alcune cose di Cummings, e poi invece alcuni autori contemporanei come Bruce Covey, come Olivier Cadieux. Adesso mi sto concentrando sui francesi. Julien Blain è un nome celeberrimo dal punto di vista anche della performance, ed è stato uno dei grandi amici di Adriano Spatola, per esempio. Ce ne sono tantissimi, insomma, come vedete, ecco, sono centinaia e centinaia di testi, di materiali, di cose tradotte, di anche recuperi dal passato più o meno remoto. Recentemente, torniamo alla home page, recentemente ho messo un pezzo di Laurie Anderson che non si recuperava da diverso tempo, c'è una performance del 1977, un altro testo che, come si vede, lavora sulla sovrapposizione, rendendo quasi incomprensibili i testi di Mel Bochner, che è del 71, e via così. Adesso c'è una mostra straordinaria alla October Gallery di opere grafiche, di pittoriche principalmente, di William Burroughs, e io ne ho scelta qualcuna e l'ho messa qui in rete, cercando quindi di offrire una sorta di osservatorio su quello che si fa o si è fatto nel mondo, e che in qualche maniera ogni post che facciamo consuona con un'idea di massima di ricerca che però ha veramente un arco di interessi a 360 gradi, cioè non c'è una vera e propria linea, è semplicemente spesso tutto quello che normalmente non trovate nelle librerie, nella distribuzione generalista dei materiali. Non troverete mai al Premio Strega o al Premio Strega Poesia, non troverete nelle case editrici maggiori, e via così. E io sono qui a rispondere alle domande sia su questo che su quello che volete. Grazie per... Grazie a voi. Tra l'altro, sì, questo lavoro dei siti, sui siti Gamma, ma anche sul tuo sito Slow Forward, è preziosissimo per trovare anche perle o cose non rare ma molto importanti. Ho scoperto tantissime cose, diciamo, accettando di perdermi, sì, e anche la cioè ci è mostrato, c'è tantissimo materiale, un po' l'atteggiamento che ha anche chi esplora questi siti, deve essere per forza un po' casuale, cioè anche il bello della certo. cosa, e così ci trovo molti, mi sembra che il cerchio si chiude e si riapre, questo è un pazzo che sta con un sistema, ovviamente, per produrre musica, che gli sta semplicemente dando fuoco. Quello che produce lo registra fino alla fine. Adesso non so se l'audio c'è o non c'è. No, non c'è. Da qualche parte sta. Aspetta, vediamo se... È spento quello del computer. Ah, è spento quello del computer, siamo a posto. È come se... non lo so. Forse là, sì, qua. No, velocità e qualità. No, perché... Vabbè, comunque lo trovate su... Perché io sono incapace, cioè... Digita. Questo qua. Ok. No. Oddio, ecco. Però sta... Ah no, ecco. Forse era meglio se lo lasciamo spento. Boh. Arriva fino alla fine. Vabbè, adesso semplicemente lasciamo posto alle domande. Cioè, per gli incendi sì. Ci sono altri tempi. Allora... Prego. Se avete qualche curiosità, qualsiasi cosa, anche su tutto quello che abbiamo detto, che mi rendo conto di essere stato molto, cioè, denso con me. Solita domanda. dire qualcosa che possa essere in qualche maniera vero, che possa davvero comunicare con il suo interlocutore. E mi chiedevo appunto in questo, con questo approccio così sperimentale e di completa immersione nel gioco con il caos, che ruolo ha l'idea di verità, di volontà di dire qualcosa che arrivi proprio in modo nitido al pubblico. Che ruolo ha per te, che ruolo ha secondo te nella ricerca artistica poetica, post-poetica, di installazioni, e come ti relazioni a questo? Guarda, ti rispondo con questa cosa che ritrovavo in un libro oggi. Allora, Brian Gysin era per un periodo lungo di tempo è stato compagno di William Burroughs e è colui che veramente ha inventato il cut-up, cioè che ha scoperto. Burroughs torna da un suo viaggio e trova la stanza al Beat Hotel piena di frammenti di scrittura, di pezzi tagliati di giornale messi insieme, quindi chiaramente una difficoltà di comprensione, una difficoltà di comunicazione. E in realtà questa è la folgorazione, per lui poi verrà la scrittura del pasto nudo e di tutta un'altra serie di cose, di testi. E in una intervista di Burroughs con Gérard-Georges Lemaire, che sta nel libro La scrittura creativa, pubblicato da Sugarco nel 1981 e ristampato nel 1994, io leggo questo frammento che dice: Brian Gysin ha parlato molto della relazione tra scrittura e pittura. Spiega come la pittura renda perfettamente esplicito un certo numero di caratteristiche della percezione umana. In breve, mostra alla gente qualcosa che conosce ma non sa di conoscere. Quando Cézanne ha esposto le sue prime tele per la prima volta, nessuno ha saputo vedere che erano semplicemente una mela, un'arancia o un pesce visti sotto un certo angolo. Io ho una tela di Brian Gysin su cui si possono vedere dei veicoli disposti su strati diversi. Si tratta molto semplicemente di un taglio nel tempo. Se andate per strada, specialmente una strada che conoscete bene, non vedete soltanto le macchine che ci stanno, ma vedete anche quelle che c'erano ieri, che c'erano 10 anni fa, e questo per associazione mnemonica. Ma se mostrate questo fenomeno su una tela, la gente spesso dice: cosa vuol dire? Vuol dire quello che vedete effettivamente, i dati della percezione umana. Questi dati sono resi espliciti nella pittura come nella scrittura, come in altre forme, per esempio nel cinema. Spesso le persone sono disorientate nello scoprire ciò che già sanno le persone senza sapere. Quindi l'impressione che ho io, e posso sbagliare, però è quello che, poi confrontandomi anche con altri, spesso mi sono trovato a concordare appunto su questo, è che la ricerca letteraria, la sperimentazione, semplicemente espone dei versanti della nostra percezione che normalmente noi mettiamo in atto, ma che è un certo tipo di scrittura a mostrarci in maniera assolutamente evidente. Per esempio, un altro brano di Burroughs, che però non leggo, parla del cut-up come normale fenomeno nostro di percezione, cioè non è, usciamo per strada e vediamo linearmente un evento e poi ne vediamo un altro e poi ne vediamo un altro. Sicuramente lì mescoliamo la nostra percezione e poi attraverso un'opera di ordinamento intellettuale li organizziamo in un tutto sensato. Però in verità possiamo anche avere delle forme d'arte che mostrano i piani sovrapposti, un po' come ha fatto il cubismo all'inizio del secolo, un po' come ha fatto il futurismo quando cercava di visualizzare il movimento attraverso la moltiplicazione dell'oggetto che si muoveva, come hanno fatto Anton Giulio Bragaglia con la fotografia, per esempio, e questo all'inizio del secolo. L'impressione che ho io è che, certo, c'è un certo aggiustamento della percezione del letterario che è richiesta e che richiede forse più lavoro che non quell'aggiustamento che noi normalmente mettiamo in atto quando vediamo un film o quando vediamo, per esempio, una serie ricchissima di flashback e flash forward, che noi chiaramente organizziamo nella nostra mente e capiamo che quello è un flashback e quell'altro è un flash forward, ma se ce lo fanno su un testo è più difficile, cioè comunque dobbiamo un attimo capire cosa sta succedendo. Mentre durante la proiezione di un film nessuno si alza e dice: ma che vuol dire, me ne vado, quando si tratta di un libro, una tentazione può essere, ed è legittimo che sia, quella di chiudere e lasciar stare. Io ricordo quando ero ragazzino che ho incontrato per la prima volta i racconti di Cortázar, soprattutto le storie di Cronopios e di Famas, che effettivamente non capivo, cioè io abituato a una narrativa effettivamente quasi, insomma, da Poe a non so chi, ero completamente disorientato dall'idea, oppure dal primo racconto che si intitola Casa occupata, di non so se è Ottaedro, non ricordo più, o Bestiario, credo sia Ottaedro, in cui praticamente ci sta questi due personaggi che improvvisamente avvertono che loro stanno arrivando, chi è che sta arrivando, e quindi si spostano dalla prima stanza dove stanno alla seconda, perché la casa comincia a essere occupata, e poi dalla seconda alla terza, e via via via, con un senso d'angoscia sempre maggiore man mano che il narratore racconta. E perché? Cioè, esattamente cosa che succede. Allora, io ho sempre pensato questo, cioè se io 14enne, 13enne, quando ho letto queste cose, mi fossi fermato lì, avessi chiuso il libro, non è che sarebbe successo niente, avrei continuato a leggere altri libri e altri tipi di testualità, però forse avrei perso tutto un universo, che tutta la narrativa, per esempio, sudamericana, se vogliamo, anche quella forse un po' più commerciale, quella più da realismo magico alla Marquez, per dire, insomma, e quindi forse è più difficile che non nel mondo dell'immagine, a cui noi siamo più abituati, anche perché tra Instagram, Tumblr e 10.000 altre cose siamo molto abituati a avere a che fare con le immagini, però in scrittura sono presenti e possibili e esplorabili a territori altrettanto interessanti, io credo, però bisogna forse prenderci la mano. Scioccati. ci sarebbe ancora tanto da dire. Allora, in realtà il nostro tempo è finito, però se avete qualche curiosità, molto liberamente, insomma, siamo qui. Oppure ci salutiamo. Abbiamo. È solo se puoi leggere la cos'è, insomma, metrica. Sì. È vero, sì, l'ho sì. Messo anche nella selezione, sì. Allora, quello è un episodio che è veramente accaduto. Allora, dice così. Mi aggiungo anche io, scusate se sì. A cavallo, perché avevo la richiesta di un testo. Sì. Sul microfono, l'ultima di oggetti. Ah, sì, d'accordo, va bene. Sì. D'accordo. Allora, un'altra richiesta. Vai. Jukebox. Scioccando. Non ce l'ho, non ce l'ho purtroppo, però no, non... Ah, vabbè, se sei tu statueline, no, non ce l'ho, che è brevissimo, tra l'altro non so se è in rete da qualche parte, vediamo un po'. No, adesso lo ricordo benissimo che non sta in rete, però non credo, almeno vediamo un attimo. No, che se metto premio strega viene fuori l'infinito, no, non è possibile. Provo io magari nel frattempo. Magari cerca tu, intanto io leggo magari i testi che dicevate. Allora, questo viene da questo appunto chapbook che si intitola La gente non sa cosa si perde. Anche qui la grafica di tutte queste opere è sempre di Enrico Pantani. Cerca di convincermi dicendo che è un'opera di grande raffinatezza metrica, che se ci si concentra sulla metrica, sulle ricorrenze, sulla impressionante tramatura di armonici e risonanze, si rimane affascinati e persuasi. La metrica. Rimango perplesso e deve capirlo dalla mia espressione, ma non gli rispondo mentre saliamo la scala. Arriviamo in primo piano, è l'autore molto giovane o comunque abbastanza giovane, troppo per essere invitato lì, che stasera ascolteremo. Mettendo l'accento sul metro, sulla metrica, mettendo lì l'accento, dimenticando cosa c'è scritto e che fa ridere, fa pena. Come se mi chiedessero di andare in giro nudo ma coperto da un raffinato, tramato e complesso centrino all'uncinetto di 20 per 20 centimetri. E io a dire, ma no, non mi copro, sono nudo, datemi una mutanda. Loro a insistere, dai, non vedi che rigoglio, che ragnatela di intrecci, indossalo il centrino, tu, datti gioia, sine, orgoglioso, tutti apprezzeranno. È un centrino, dico, e l'arte dei centrini è nobile, ma io rischio l'arresto, voi non capite. E loro, sei tu che non capisci. E l'altro era Ah, il microfono implicito, sì. Che invece è esplicito, come vedete. Allora, il microfono implicito. Uno, voi parlate e mentre parlate avvertite il microfono registrare, o la telecamera, la videocamera, registrare, avvertite, il microfono registra, registrate. Il microfono che registra è come l'osservatore dei soliti fenomeni quantistici, cambia la situazione osservata, bla bla. Se è presente il microfono, il video, l'operatore, l'intervistatore, allora la scena psicoanalitica cambia. Il microfono c'è già, dunque c'è già l'analista. A chi parla rimane così soltanto la voce dell'isterico, il suo discorso. Allora fa quello. Fate. Voi parlate e mentre parlate avete davanti a voi una, due, tre persone. Pare ne bastino due per formare un pubblico. Il pubblico genera di fatto un o il microfono e viceversa. Anche se non c'è il microfono. E la presenza del microfono ci porta al punto 1, non c'è il punto 2. E parlando, nel discorso dell'isterico, voi di balza in balza dislocate, ossia, siamo sempre al punto 1, slogate, spostate la figura intera che volete sia percepita intera dai vostri interlocutori in questa o in quella cosa, di identificazione in identificazione, senza coscienza di questo processo. L'analista che dovrebbe farvelo notare lo avete predigerito in microfono. Tace. Procedete e parlate costruendo continui specchi nelle parole o nell'ascolto dell'altro, anzi degli altri, che, non per voi, sono davanti. Questo forma il problema che nella pratica testuale contemporanea, ma perfino altrove, viene detto narcisismo. Si presenta, o meglio, può presentarsi, dipende da chi parla, non più quantisticamente incerto, ma newtonianamente stabile. Tutte le volte che compare un microfono, un video, una platea o il sommarsi di due o più sguardi o ascolti, anche in assenza di microfono. In ogni orante c'è un microfono implicito. Parla come essendo, volendo essere e essere perché ripreso, registrato, messo a registro, in riga, regolato, detto integro. Ma c'è un ma o il ma. Strato dopo strato si sfoglia, è esattamente una cipolla, ovviamente senza eccetera. E questo è un po' la ripresa del discorso lacaniano sulla differenza tra io e soggetto dell'inconscio. L'io precostruisce, preorienta il discorso dell'analista. E parla costituendo la realtà davanti a chi ascolta, mentre il soggetto dell'inconscio, come dice Carmelo Bene, sale sulla, non sale sulla sedia, non dice la poesia e non è regolabile, non è controllabile, non è sociale, forse antisociale. Infatti io però volevo concludere proprio con quattro consigli per gli acquisti e uno è proprio Carmelo Bene, sono apparso alla Madonna, dove nel suo percorso autobiografico molto molto molto singolare lascia degli elementi importantissimi dal punto di vista della costruzione del testo e dei suggerimenti, cioè meglio delle autoanalisi, che poi autoanalisi non sono, straordinarie, per esempio lì dove parla del cinema, dove si procede per attendibilità di racconto, scansione del logos eccetera, a cui lui era frontalmente nemico, e poi tutto quello che trovate di Carmelo Bene va letto e digerito. Poi un'altra cosa è vabbè, insomma, sto dicendo cose insomma abbastanza banali, sia per Bene sia per questo che sto per dire, è che Roland Barthes, l'impero dei segni, lui viaggia in Giappone e ne riporta una serie di impressioni, o sono già descrizioni di cosa può essere la testualità in un orizzonte che sta fortissimamente cambiando. Tra l'altro la traduzione di Marco Vallora, che è un traduttore straordinario, purtroppo morto abbastanza recentemente, e è del 1970. Gli anni 70 sono il decennio in cui si struttura in Occidente una percezione molto netta di quella che poi gli americani penseranno un po' di aver inventato loro alla fine degli anni 90, invece non è così, cioè la scrittura asemica. Ma questo è un discorso che poi possiamo fare in un altro momento. E poi gli altri due, ultimi, poi basta, vi lascio. Fotografia e inconscio tecnologico di Franco Vaccari. Ed è un libro che sostanzialmente, se voi lo leggete sostituendo a fotografia poesia, diciamo, vi trovate di fronte a una vera e propria teoria della ricerca letteraria, in qualche maniera. Fotografia inconscio tecnologico, che è uscito negli anni 70, anche questo è stato ristampato con una nota di Roberta Valtorta nel 2011, ma dovrebbe essere ancora disponibile. Ultimo, purtroppo c'è soltanto in francese, perché credo che in italiano siano state tradotte soltanto delle parti, pubblicate credo da Abscondita, e sono le note di Marcel Duchamp, che uscirono postume e che raccolgono tutta una serie di appunti suoi legati in linea di massima, su foglietti, alle varie opere che lui ha costruito nel tempo, e ci trovate proprio delle cioè è già un libro di testi sperimentali di questi che abbiamo letto, no? In qualche maniera, ma in più contiene anche delle riflessioni di poetica, se vogliamo, per esempio lì dove parla di una scrittura senza metafore, una scrittura diretta, una scrittura appunto priva di orpelli, che ricalcano in maniera straordinaria, abbastanza impressionante, quello che è la teoria di Jean-Marie Glaise qualche decennio dopo. Però lui lo riferiva all'arte e usava questa serie di esempi che faceva in maniera, insomma, più o meno connotata e legata al suo lavoro artistico. Invece, secondo me, se anche qui, se sostituite la parola poesia ogni tanto, trovate delle cose interessanti che riguardano appunto la ricerca letteraria. Purtroppo non ho trovato, cioè non c'è il testo della domanda, e non so. A memoria non me lo ricordo. Comunque, beh, direi che possiamo chiudere con questi consigli. Degli acquisti, per gli acquisti. Per grazie. La lettura. Grazie a voi e grazie Anita. La prossima, tra un po' di tempo, il prossimo incontro è sul Poesia dialettale il 24.